X24 di Giovanni Minoli. Buongiorno, bentornati su Mix24. Ieri, come sappiamo tutti, le nuove terribili scosse di terremoto hanno colpito il centro d'Italia, hanno fatto un numero imprevisto di vittime nell'albergo spostato dalla valanga di 10 metri. E proprio ieri mattina, durante la seconda scossa, quella più forte, alle 11.14, io ero al telefono con Beatrice, un'amica di Amatrice, per avere notizie su come stavano andando le cose. Questa è la drammatica telefonata che stavamo facendo, il sisma in diretta radio, insomma. Coprite per favore, devi alla polmonite. Pronto? Chiama papà che non so tutto. Come ne stai passando tu, non so? Beatrice? Beatrice? Beatrice? Beatrice? Beatrice? Beatrice? Beatrice? Beatrice? Beatrice? Pronto? Pronto? Giovanni? Sì, ciao, sono Giovanni. Mamma mia, ma no, ma che scusa? Ma che scusa? No, ma pazzesco, perché io stavo parlando con tua moglie. Ma porra Stella, ma perché si è sentita male mentre stava parlando con me? Sì, perché è arrivata la scossa. Mamma mia, fortissima. Stava qua fuori e era caduta. Mamma mia, porra Stella. Non se ne può più qua, Giovanni. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Sando che sta un metro e mezzo di neve, non si può scappare, non si può. Ci saranno 2 metri, in tante parti pure 3, no? Siamo cercati di fare un po' di strada col trattore pure te. Mamma mia. Senti, ma se io non posso fare niente materialmente, ma posso continuare a parlarne, capito? Ho capito, Giovanni. Lo so che non serve a niente. Siamo così, mo sto un attimo, sì. Sì, va bene, dagli un bacio da parte mia. Sì, poi ci sentiamo. Va bene, ciao caro, ciao. Ecco, continuare a parlarne per quello che può servire, quello che faremo naturalmente con continuità. Ricordo che le scosse sono state 45.000 da agosto. Bisogna sollecitare tutte le iniziative possibili per aiutare il sindaco di Amatrice Pirozzi. Abbiamo sentito l'altro giorno, ci diceva una cosa che adesso la gente ha bisogno di tutto, è vero, lo sappiamo, ma anche e soprattutto ha bisogno di calore, di sentire solidarietà. Perfino una pacca sulla spalla può essere utile, perché il risvolto psicologico è pesantissimo. Il professor Antonio Tundo, psichiatra, psicoterapeuta cognitivo, direttore dell'Istituto di Psicopatologia di Roma. Ecco, professore, cosa succede nella psiche quando si è sottoposti ripetutamente a eventi traumatici come un terremoto? Diciamo che ci sono delle reazioni ormai che accadono a tutti, c'è un senso di paura, di impotenza, di angoscia per aver visto essersi feriti o aver visto dei feriti o ancora in altri casi anche di decessi di persone vicine, e quindi l'angoscia anche per quanto riguarda il futuro, i propri beni, il lavoro, via discorrendo. Ecco, ma la paura... No, prego, scusi. Prego, diciamo una reazione comune di paura che è normale avere, che dopo un po' di tempo, siccome l'uomo è portato a reagire, si autodissolve. Cioè la paura diventa però una compagna difficile da abbandonare se le cose sono ripetute nel tempo? Diciamo, la paura diventa difficile da abbandonare soprattutto in alcune persone più sensibili, che poi rischiano di entrare in una spirale di stress, di paura, di reazione traumatica. Per fortuna non tutti, perché l'essere umano, come dicevo prima, è in grado di reagire, quindi anche davanti a situazioni catastrofiche ripetute ha una reazione di allarme immediata, ma poi risolve, recupera. Purtroppo non sempre è così. Ecco, ma quindi gli effetti sulla vita di tutti i giorni nel tempo si affievoliscono? Si affievoliscono, nella normalità si affievoliscono, si reagisce, si comincia a pensare su come ricostruire, e quindi c'è una sorta di ripresa emotiva che aiuta a affrontare i problemi anche ripetuti con serenità effettivamente. Ecco, ma se la ripresa invece non è naturale, che tipo di assistenza si può dare a chi avverte più degli altri la conseguenza dei traumi? Certo, abbiamo due possibili conseguenze, quelle immediate, cioè la reazione di stress acuto, di ansia acuta, patologica tra virgolette, appena subito quel trauma, e quindi la persona va in un senso di distacco dalla realtà, di distacco emotivo, di intontimento, comincia a sentire anche se stesso alterato, cambiato, come se fosse un'altra persona, non riconosce il mondo circostante, ha paura di stare per impazzire, e in questi casi l'aiuto più importante di natura psicologica, cioè una specializzazione, cosiddetti la psicologia della catastrofe, dei professionisti che aiutano le persone attraverso interventi di gruppo, attraverso il discuterne in gruppo. Il gruppo è una cosa, il sindaco di Amatrice ci diceva, molto importante anche una carezza, una pacca sulle spalle, far sentire la presenza e dare la possibilità a queste persone di parlare delle loro angosce, delle loro paure, dei loro problemi, parlare, e quindi non isolarsi, non chiudersi. Questo è curativo, quindi dal suo punto di vista il consiglio più grande è quello di fare gruppo, diciamo, in qualche modo. Di fare gruppo e sostenersi a vicenda. Va bene. Si è di aiuto e si riceve aiuto contemporaneamente. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. First I was afraid. I was petrified. First I was afraid. Eccolo il nutrito gruppo di attori e attrici che interpreta a cappella I Will Survive, dedicata al presidente eletto degli Stati Uniti. Settori chiave del potere economico americano che prima erano schierati con Hillary Clinton e adesso rivedono le loro posizioni. Sono una dozzina finora i parlamentari democratici che hanno annunciato che diserteranno la cerimonia di insediamento. Fa ancora più rumore che la seduzione del nuovo presidente abbia avuto effetti anche sugli uomini di Silicon Valley, da Apple a Microsoft, da Amazon a Tesla, da Google a Facebook. Trump alla Trump Tower di New York ha accolto tutti i giornalisti, ma ha risposto solo alla metà di loro: siete bugiardi, con voi non parlo. No, not you. È chiaro come andranno le cose nei prossimi 4 anni. Ecco, siamo all'Inauguration Day, l'era di Trump comincia in modo difficile anche per i giornalisti, in modo inedito se non altro. Giulio Tremonti invitato alla cerimonia di insediamento. Ecco, subito dopo la vittoria di Trump, Obama ha detto non è la fine del mondo, ma è l'inizio di un altro mondo, senatore? Questa è la fine di un mondo, ecco, la fine del mondo che non solo è stato dominato dalla globalizzazione economica, ma anche dalla globalizzazione politica o della politica. Prima di tutto è una rivoluzione culturale che investirà anche l'Europa? Se per culturale si intende alla tedesca lo spirito profondo dell'esistenza, del vivere, direi di sì. È cominciato tra l'altro in Europa, poi è passato dall'Inghilterra, è arrivato in America, tornerà in Europa. Ma l'America di Trump sarà sempre più lontana dall'Europa? L'America sarà molto concentrata sull'America e svilupperà molto i rapporti bilaterali. Punterà sui rapporti bilaterali con ogni Stato europeo? Mica tanto con ogni, per esempio, è già sicuro il rafforzamento nella anglosfera, certo, del rapporto tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. Poi ci sarà il rapporto bilaterale con la Russia e dovrebbe essere e collettivo. Ne parleremo, certo. Non so come sarà con la Cina. Ma il Wall Street Journal ha scritto che Trump può costruire il nuovo ordine mondiale. È questo il nuovo, diciamo, i primi segnali di un nuovo ordine mondiale? La parola nuovo ordine mondiale mi sembra la formula un po' complicata. Certamente un sistema diverso da quello che è stato un ordine o voleva essere un ordine mondiale con la globalizzazione. Quindi sicuramente diverso da prima. Ecco, lei nel suo libro Mundus Furiosus ha auspicato la riscrittura di tutti i trattati europei, proprio perché forse sta cambiando tutto. In che direzione? L'impressione è che l'Europa sia ormai sempre più un'astrazione materializzata da un nome. Già oggi anche i più fedeli europeisti ti dicono che bestia siamo, che cosa siamo. Esatto. E cioè dire nella Chiesa stanno cominciando a perdere fede non solo i fedeli ma anche i religiosi. Certo. Allora io vedo una sola, so che due cose sono difficili, una è ancora più difficile ma è quella giusta. Allora, non credo giusto e possibile continuare con la cosiddetta Unione Europea come adesso. Non la vogliono i popoli, ha in un qualche modo fallito. Se vai in un bar e chiedi volete più Europa, ho l'impressione che ti prendono. Sì, esatto, non la prendo bene. Cioè. No. Secondo, tornare agli stati nazione in automatico, in regressione, può essere che si viene giù tutto, si torni agli stati nazione, però il mondo è cambiato nel dopoguerra, secondo la dopoguerra gli stati erano autonomi, adesso con forze che comunque si sviluppano su scala globale, a partire dalla finanza, essere da soli è può difficile. Diventare un po'. Io mi ricordo qualcosa di simile nel 2011, certo. Quando la finanza voleva alcuni risultati. Ma quale sarà il suo interesse? Oppure la Confederazione Europea, che è un nome nuovo, e secondo me anche abbastanza affascinante, sì, per tornare alla formula di 70 anni fa. I trattati di Roma erano basati sulla sussidiarietà, che vuol dire fai sopra solo le cose che puoi fare bene, o meglio sopra, il resto lo lasci sotto, e cioè dire tu metti insieme a livello europeo la difesa, l'intelligence, ma non rompi le scatole ai cittadini con le regole europee sui termosifoni. Certo, ma quale sarà secondo lei la reazione della Cina alle iniziative protezioniste di Trump? Cioè la Cina ha una quota enorme di debito pubblico americano. Infatti. Credo che ci sarà la manutenzione dei trattati, come dicono gli americani, il fine tuning, ma non credo ci sarà la eliminazione dei trattati o la creazione di dazi preclusivi e di blocco. Le frontiere non attraversate dalle merci sono attraversate dagli eserciti. Esatto. Che significato ha, se ha un significato, il fatto che proprio adesso il presidente cinese sia andato a Davos, dove non c'è nessun americano e ci sono tutti i super miliardari del mondo? Beh, la Cina si presenta come il leader della globalizzazione economica. Va lì a sponsorizzare il mondo dei commerci e dei traffici. La vecchia globalizzazione, quella che è cominciata 20 anni fa e si è piantata adesso con le elezioni americane, non era mica solo economica, era certo una nuova religione. Materialismo globale, l'uomo nuovo è l'uomo che consuma per esistere, esiste per consumare. E la cattedrale sta venendo giù. Cosa poi sarà finita la fede religiosa nella globalizzazione dogmatica del consumo, per cui anche la democrazia è un prodotto che io esporto. Ma che senso ha oggi in questa destrutturazione del vecchio mondo la NATO che fa operazioni militari ai confini con la Russia, mentre noi abbiamo il caos nel Medio Oriente e nel Mediterraneo? Quando lei dice vecchio mondo, sempre abbiamo presente che è un mondo di 20-25 anni fa. E certo, adesso è un po' strano vedere che ci sono schieramenti e operazioni NATO in Europa, ma non ci sono da altre parti, ma credo che ci sarà poi ci un sarà. Equilibrio. Cioè, questa anglosfera tenderà ad avere rapporti bilaterali con i paesi europei? Beh, è chiaro che comunque avrà dei rapporti, che so, con la Germania. Quello sicuro. Dubito che siano particolarmente interessati ai rapporti con altri paesi, ecco. Ecco, senta, un'ultimissima cosa. Ma esiste un potenziale partito di Trump per il futuro dell'Italia? Made in Italy. Cioè, Made io in Italy. Credo proprio che, per coerenza, la talpa, la giovane talpa populista ha scavato il terreno su cui è stata costruita la globalizzazione. Ma la talpa populista non è mica solo di un paese. Ogni paese avrà la sua politica, diciamo, più o meno sovranista. Questo mi sembra un dato molto importante, ma non che è una merce che si esporta. 800 24 00 24, numero verde 349-238-6666. L'SMS, Mario, insomma, il quadro tracciato da Tremonti è il quadro dentro il quale parte l'avventura di Trump. Sì, domani ne avremo già un primo assaggio con una inauguration day diverso da tutti quelli precedenti. Ti do un dettaglio. Sì. Obama fece 10 inauguration balls, cioè i balli inaugurali. Bush ne fece 8, Trump ne farà solo 3, perché si annoia, perché non gli interessa, perché vuole per che fare, sia più che per il parlare. Esatto, vuole che sia il giorno di un uomo che fa business per gli Stati Uniti. Quindi non vuole feste. Senti, Pietrangelo, tu sul piano culturale cosa ti aspetti da Trump? Trump è un sovranista, no? Qualche giorno fa tu hai anche cominciato un po' a avere dubbi sulla sua strategia futura, o no? Sì, i dubbi ci sono, perché i dubbi valgono per tutti. Bisogna certo vedere quali saranno adesso le sue vere ed effettive mosse. Però non c'è dubbio, come sottolineava prima Tremonti, che un duro colpo è stato inferto al materialismo globale, che in altri termini possiamo chiamare il mondialismo, cioè quello che dalle nostre parti si identifica nel cosiddetto europeismo, nella convinzione che la politica debba sottostare all'egemonia di banche, di finanze. Però tutto ciò non ha bisogno di confini, non c'è uno Stato-nazione che si identifica in questo progetto. Certo. Ed è significativo ed è veramente interessante, come, per come l'ha posto Giulio Tremonti, che la Cina, cioè l'erede di quello che fu il comunismo di Mao Zedong, con un leader è il che, simbolo come ricordava, del capitalismo, diventa come ricordava ieri Mario, che sta anche perpetuando il mito della personalità, adesso si sia messo a disposizione di quelli, certo, che non avendo bisogno di confini devono comunque reggere le redini del mondo. Ecco, Luigi Zingales, che è un economista, docente all'Università di Chicago, lei sul Sole 24 Ore ha scritto: Trump è per il business, ma non è detto che sia per il mercato. Cosa vuol dire esattamente? Beh, c'è una differenza tra fare l'interesse dei grandi gruppi industriali e fare l'interesse di un mercato competitivo, che vuol dire dare maggiore possibilità a tutti di riuscire e di creare maggiore competizione che beneficia poi i consumatori alla fine. Le industrie tradizionali, però quelle della old economy, hanno messo a segno risultati eccezionali. Trump è un ritorno alla tradizione anche in economia, quindi? Beh, diciamo che hanno messo a assegni dei risultati elettorali anche grazie a delle condizioni di mercato che li favoriscono. Certo, però... Ci stanno cercando attraverso Trump, secondo me, di avere un appoggio per continuare in questa direzione. E la borsa comunque oggi ha messo il turbo. Wall Street crede nel piano di stimoli fiscali di Trump, mi pare. Può spiegare in cosa consiste esattamente questo piano? Beh, i dettagli finali non li abbiamo ancora. Non ci sono, però sostanzialmente sì. Si parla di una riduzione pesante delle imposte societarie. Gli Stati Uniti oggettivamente hanno uno dei tassi diciamo, per imposte societarie più elevati, anche se poi molte società finiscono per non pagare attraverso dei trucchi, però sì. Quindi una è una forte riduzione delle imposte societarie. Penso anche una riduzione delle imposte sul reddito. Ecco, ma si può dire un po' Trump come Reagan, per semplificare? In questo senso sì, bisogna anche però ricordarsi che Reagan era un mondo in cui le imposte societarie erano il 48% e quelle personali arrivavano anche al 75%. Ah, beh, era un quindi, mondo certo, completamente diverso. Ecco, Trump vuole abolire l'Obamacare, ma ha promesso la sanità universale, cioè per tutti. Ma si può fare? Beh, sicuramente si può fare, vediamo che anche in Italia c'è. Diciamo che la cosa paradossale è che l'Obamacare è un tentativo di combinare alcune condizioni di mercato che piacciono agli americani con il principio della sanità universale che diciamo è sentito come una necessità dalla maggior parte dei cittadini americani. Però è un compromesso difficile tra un diritto alla salute, dall'altro dei costi che molto certo, spesso sono esorbitanti, certo, o anche delle inefficienze che sono esorbitanti. Certo. Professore, senta, gli economisti sono un po' nell'occhio del ciclone per le previsioni sbagliate, obiettivamente. Il Fondo Monetario Internazionale ieri ha rivisto per la seconda volta dopo la Brexit la crescita del Regno Unito, a rialzo ovviamente. Cosa sta succedendo? Perché tutti questi errori di previsione? Secondo me c'è un problema più serio che in psicologia si chiama groupthink, cioè ovvero la tendenza di alcuni gruppi molto coesi di ripetersi a se stessi le stesse cose fino a convincersi al di là. Quindi autoconvincersi da soli, insomma, più o meno. Esattamente. Questo secondo me succede molto in gruppi che sono ristretti, certo, e che si sentono anche superiori. Il termine groupthink è stato inventato da un psicologo per vedere per capire il fallimento della baia dei porci, il tentativo di Kennedy di invadere Cuba. E in quella amministrazione c'erano le persone più intelligenti che l'America aveva in quel momento e fece un errore di valutazione enorme. Senta, il presidente cinese Xi Jinping è andato a Davos. Pechino sta cercando nuovi spazi alleati, lì non c'era neanche un americano. È un grande momento per la Cina, nel senso che da un lato è chiaramente un successo economico, certo, ma dall'altro purtroppo si pone oggi anche come successo politico, cioè di fronte alla crisi dell'Occidente, anche crisi di consenso, certo, la Cina dimostra un modello che ha funzionato. Adesso vediamo quanto bene funzionerà con dei tassi di crescita più bassi, nel senso che a tasso di crescita dell'8% chiunque riesce ad avere consenso. Certo, finché le cose vanno bene. Senta, ma in questo quadro la politica della Banca Centrale Europea di Draghi secondo lei è efficace o ha esaurito la sua funzione primaria? Beh, partiamo dal presupposto che di politica monetaria non si può vivere solo di politica monetaria. Certo, naturale. Le capacità sono limitate. Secondo me quello che ha fatto è il massimo possibile per aiutare la situazione. Primo, non basta. Secondo, la mia paura è quando questo aiuto finirà. Certo. E le condizioni internazionali per sostenere questa politica stanno esaurendosi e di fronte a un rialzo dei tassi io non so esattamente cosa potrà fare. Ecco, Trump ha salutato la Brexit come un evento positivo e di fatto ha riaperto la relazione speciale con il Regno Unito. È la premessa, diciamo, di una mossa che tagli fuori l'Europa? Ma il mondo sta cambiando e devo dire, a me non piace assolutamente Trump, ma devo dire che... Però lui l'ha colto, questo cambiamento l'ha colto. Esattamente. perché alcune delle cose che ha detto sull'Europa, che l'Europa è troppo germano-centrica, esatto, sono sacrosante. Sa cosa c'è? E purtroppo le dice solo Trump, certo, perché nessun altro in Europa ha il coraggio di dire. Infatti la Germania sembra incominciare a essere un po' nervosa. Senta, ma una distensione con la Russia aiuterà l'economia mondiale, secondo lei, o solo un fattore strategico militare? Io temo che sia un fattore commerciale della persona Trump. Che poi dopo si porta dietro tutto il resto. Io vedo con molto paura questo avvicinamento, sia perché indebolisce la NATO, indebolisce anche la credibilità degli Stati Uniti verso nazioni che hanno fatto dell'alleanza con gli Stati Uniti il loro cavi, il loro sostegno. Ma a chi pensa? A chi pensa? L'Europa? Alla Polonia, ai Paesi Baltici, prima di tutto. Dopo vediamo anche noi, ma noi siamo più schermati. Una possibilità potrebbe essere, ad esempio, che la Germania diventi anche potente militare per assicurare questi paesi satelliti che hanno dei grossi benefici commerciali da interagire con la Germania. Rivedere una Germania politicamente e militarmente forte in Europa a me non piacerebbe molto, sinceramente. Ma ci sono opportunità invece per l'Italia, secondo lei, in questo scenario nuovo che sarà disegnato da Trump? È quello che vado dicendo ormai da anni, quello di forzare un cambiamento strutturale dell'area euro, perché le regole così come sono non funzionano, quindi o noi la cambiamo o troviamo un modo per fare un divorzio, diciamo, amichevole, che non sia troppo dannoso per l'economia, ma noi in queste condizioni non ce la facciamo, cioè guardi, gli ultimi 3 anni, sono gli anni, avevamo tutto che andava bene, avevamo il tasso di interesse a livelli storicamente bassi, avevamo il petrolio a livelli storicamente bassi, c'era un rafforzamento del dollaro che potevamo esportare di più, abbiamo avuto un governo stabile, abbiamo avuto tutto quello che tutti dicono dovrebbe funzionare. E invece non è capitato niente. E al massimo siamo arrivati a cose, al punto 8, siamo lì che discutiamo se il massimo è stato punto 7 o punto 8. Certo. L'altro fattore, sinceramente, è che noi non abbiamo una classe politica e manageriale per competere ad armi pari in Europa. Cioè il fatto che le nostre imprese vengano comprate dagli stranieri è perché noi non abbiamo una capacità manageriale sufficiente. Certo, un'ultimissima cosa. Il taglio del rating, secondo lei, aggrava la situazione del nostro paese? Certo, io guardo con preoccupazione il momento in cui i tassi cominceranno a risalire, perché non so esattamente come l'Italia ce la farà col debito. Passaggio dopo, adesso finiamo. Breaking news. Un aggiornamento che arriva dalla vicenda dell'hotel Rigopiano e siamo in Abruzzo, la vicenda vi stiamo raccontando da questa mattina. La notizia è che è stata estratta la prima vittima, questa la notizia viene battuta dalle agenzie in questo momento, altri dettagli per il momento non ce ne sono da quel che sappiamo e da quel che riferiscono sempre le agenzie. Ambulanze e soccorsi sono bloccati a 9 chilometri di distanza, sono arrivati però là degli uomini, sono gli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza che hanno raggiunto l'albergo con gli sci e le pelli di foca. Maggiori aggiornamenti appena ne avremo. State ascoltando un programma offerto da Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Mix 24. Ecco, Giuseppe da Milano ci chiede come mai sono andati le guide alpine con gli sci, con le pelli di foca e non con gli elicotteri, bastardo, dalla televisione non si vede, nevica in un modo tremendo, ci sono delle altre... Sì. Il capo della protezione civile, Curcio, ha detto che ci sono 30 dispersi non significa che sono... deceduti, certo, attenzione, che no. O che sono vittime, diciamo, sono dispersi, però certo è un numero che preoccupa. Sono tanti. Il problema, come sapete tutti, lì è l'ipotermia, infatti uno dei soccorsi era in questo stato, non è in pericolo di vita, le condizioni in meteo sono proibitive, per quello non possono volare gli elicotteri. Esatto, l'hotel è stato raggiunto stamattina alle 4:30 da un gruppo di soccorritori definiti eroici per le condizioni, certo, infatti, ci andavano con le pelle di fuoco. Proibitive. L'albergo è stato spostato di 10 metri sì, dalla. Sì, questo dalla, è quello, questo è quello valanga, che sì, si sa finora. Diciamo. Certo. I fatti concreti sono questi. Poi vedremo che esatto. Le prossime notizie, naturalmente, vi terremo aggiornati minuto per minuto se capita qualcosa di nuovo e se ne abbiamo notizie. Intanto, Pietrangelo, continuiamo la trasmissione. Tu che cosa ci fai ascoltare oggi? Eccola. Got white skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Allora, le cose cambiano, troppo chiaro, troppo preciso il flusso dei pensieri. Occorre sempre più confusione in testa, più estro. Come la grandine sui vetri sono così i pensieri in testa. Ha chiamato la penna, ha voluto questo brano da dedicare al quaderno con un messaggio: diffidiamo dall'intelligenza. Mi ricorda quello che ha detto Pietrangelo, mi ricorda un libricino delizioso scritto da un polemista inglese all'inizio dell'Ottocento, William Hazlitt, il cui titolo è Sull'ignoranza delle persone colte. È proprio così. E intanto Paolo ci scrive, dice: perché dobbiamo dare i soldi ai numeri verdi che ce li chiedono in questi giorni per l'assistenza, visto che in realtà non si riesce a organizzare. Ma non, in è che non, modo. Ma non è che non si riesce a organizzare, ci sono condizioni pazzesche di climatiche in questo momento. Questo è vero. Cioè, adesso bisogna essere oggettivamente ciechi nel non vedere il fatto che nevica, ci sono la rete elettrica non funziona, neanche quella telefonica. C'erano decine di migliaia di interventi in corso sulla rete elettrica, la rete telefonica, cioè quello che sta accadendo. Cioè, voi avete idea di che cosa sono 3-4 metri di neve, sì, sì, su un'area così estesa, una tormenta dove non già arrivano gli elicotteri? Già di per sé è molto difficile, cioè, la natura ha una forza che ogni tanto ci fa ricordare che l'uomo è un piccolo essere nell'universo, cioè è questo il punto. Senti, ma volevo aggiungere una cosa, poi visti i commenti, visti le dichiarazioni, bisognerebbe secondo me rubricare le polemiche politiche questo tema a sciacallaggio puro. Basta. E lo stesso vale per l'opinione pubblica quando porta benzina a ragionamenti che nulla hanno a che fare con la vera emergenza. Siamo d'accordo, un po' di concretezza sulle Giovanni, cose. Giovanni, posso dire, voi dovete immedesimarvi in questa cosa. A un certo punto, ieri, dalla prima mattina, la gente era già sotto la neve da qualche giorno. Beh, telefonata che abbiamo mandato. Mancata la corrente elettrica. È mancato tutto. A un certo punto ti sei ritrovato, quindi senza neanche il minimo sostentamento, la minima funzione energetica, diciamo, d'emergenza. Erano crollate per gli allevatori, per esempio, le stalle, gli animali erano liberi purtroppo all'aperto, e quindi significa che tutto quello che hai lo rischi di perderlo, e in condizioni proibitive c'era chi doveva provare a organizzare. E infatti hanno provato andandoci con gli sci, con le pelle. Quindi c'è di fuoco, gente che fa da fare. E gente che sa solo invece così. Mario, io li chiamo le iene da tastiera. Stanno là e commentano qualsiasi cosa. Però non fanno lasciamo stare le iene da tastiera e andiamo avanti noi. Intanto oggi parla Draghi. Cosa ci aspettiamo? Sì, allora ci sono due appuntamenti. Un appuntamento molto importante, Draghi, uno è stato ieri. E torniamo alle cose che dicevamo prima. Draghi, la BCE non prenderà decisioni operative, tassi, allora di che cosa parlerà? Però tutti si attendono chiarimenti sulla prosecuzione del programma di quantitative easing, e a noi italiani interessa moltissimo. Ma è sul Monte dei Paschi? Sul Monte dei Paschi si attende una risposta della BCE, diciamo, da parte del Presidente, e naturalmente... Perché ricordiamo che Draghi era... se il governatore della Banca d'Italia che autorizzò all'epoca l'operazione di Anton Veneta, tra l'altro. E l'altra cosa che ci si attende probabilmente è qualche considerazione sull'arrivo, sull'inizio dell'era Trump, perché domani Trump comincia e la politica economica di Trump sarà diversa. Sono tutte cose che impattano decisamente sulla nostra esistenza, più di quanto immaginiamo. Pietrangelo Salamino. Più che la circonferenza, poté il cucù. Angela Merkel macina premier italiani come fossero nocciolini. Ieri ha avuto l'incontro con il conte Paolo Gentiloni Silveri, che è presidente del Consiglio, nonché quinto premier dopo la cacciata di Silvio. Dopo la cacciata di Silvio nel 2011. Ma più che la circonferenza, che vi ricorderete la battuta sulle dilaganti forme mai pronunciata da Silvio Berlusconi, ma a lui ricondotta, poté il cucù, cioè lo scherzoso marameo messo in atto dal Cavaliere in un summit internazionale e che fu considerato indice di leso Reich, buon motivo per imporre all'Italia un, come si dice Mario, come fanno gli americani, un regime change. Regime change. Ecco, sì, sì, fu un cambiamento, però grazie a Dio senza necessità di arrivare con gli hammer dei Marines né tantomeno con i bombardamenti come nell'Iraq di Saddam. E dunque ricotta! Ieri dunque Gentiloni, Gentilino, è arrivato a Berlino. Manco il tempo di godersi la convalescenza, è dovuto andare a rendere conto alla cancelliera, che è dura e severa come una feroce fiera. Manco il tempo di saltarne uno di premier italiani e la Merkel ne trova un altro. Perché tolto Berlusconi fece mettere, lo ricorderete, Mario Monti, complimentandosi con lui per le misure straordinarie. Quindi Enrico Letta, con cui si dichiarò felice di collaborare con gioia, salvo, come ricorda oggi giustamente Pietro Senaldi sul Libero, catafottersene quando venne silurato da Matteo Renzi, su cui ella, sentendosi laudare sì benignamente d'umiltà vestuta, dichiarò di essere molto colpita. Dal 2011, insomma, la Germania di Merkel governa l'Italia a colpi di regole, tasse, austerità, e ieri il signor Conte Paolo Gentiloni Silveri, con la I di Alferi, è arrivata al cospetto della Frau e ha detto, lo sapete cosa ha detto Mario, tu che tanto fai vanto dell'inglese, ha detto zusammen, cioè insieme, orgoglio della propria bandiera. Il Conte ha avuto dalla Merkel una risposta degna delle sorelle bandiera. Lui parlava e lei gli diceva: fatti più là, tutta colpa del cucù. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Mario, c'hai aggiornamenti? Sì, ci sarà, ci sarà un appuntamento con la Protezione Civile che farà un aggiornamento vero e proprio, quindi esteso, diciamo, sulla situazione tra un po' alle 10:30. Bellissimo. Le cose invece per quanto riguarda la situazione è quella che ricordiamo al momento. 30 dispersi, che ripeto non significa che ci sono 30 vittime, situazione difficile dal punto di vista meteo, soccorsi quelli che abbiamo già detto, non ci sono però aggiornamenti, sì, attendiamo. Allora, la Protezione Civile. Un'altra bolla ancora? Sì, invece voglio tornare voglio andare tra Cina e Stati Uniti, e cioè tra le cose che dicevano Zingales e Tremonti. Ieri c'è stata l'audizione di Wilbur Ross, che è uno dei ministri più importanti della prossima amministrazione Trump, che si insedia domani, è il ministro del commercio estero. Questo. E allora ha detto una cosa molto importante, secondo me, in chiave anticinese, che è da tenere d'occhio. Ha detto che la Cina è una delle economie più protezioniste del mondo, ed è la verità. Voi pensate che nell'indice di libertà economica la Cina è al 144esimo posto, quindi gli Stati Uniti, giusto per dare il paragone, è all'11esimo. Chi è primo? Singapore, mi pare, Hong Kong, non mi ricordo più. San Marino. San Marino. No, devo riguardarlo, adesso ve lo dico però. Vabbè, io intanto ricordo che dopo la pubblicità il giornale radio dedicherà al terremoto, alle zone colpite, in particolare naturalmente al dramma del Gran Sasso, con aggiornamenti sulle situazioni dell'hotel Rigopiano, dove ci sono i 30 dispersi, a Farindola, che è stato travolto dalla valanga e di cui abbiamo parlato fino adesso. Ci ho preso il giusto, era Hong Kong. Era Hong Kong, ecco. E intanto invitiamo tutti gli ascoltatori che si trovano nelle zone colpite dal sisma o che hanno notizie a intervenire in diretta telefonando, c'è il numero 800 24 24 o l'SMS 349 23 86 666. Ripeto, numero 800 24 24, l'SMS 349 23 86 666. E intanto, per chiudere, prima dello speciale del... Dimmi, Mario. No, c'è una cosa che la storia si diverte a giocare a dadi, è che l'anziano presidente Bush, padre, è ricoverato, anche lo ricordiamo. Sì, quindi insomma, il giorno in cui Trump si insedia agli Stati Uniti, insomma, hanno un po'... Cambia veramente lo scenario. Ecco, per chiudere, naturalmente, prima di dare la linea al GR, sentiamo... Che cosa ci dedica Gloria Guerrera oggi? Oggi una canzone romantica per gli unici padroni del mondo. Spiace per gli altri che non sanno, non capiscono e non sorridono. È Gino Paoli con Gli innamorati sono sempre soli. Gli innamorati sono sempre soli, soli sulla strada, soli sulla luna. Ogni panchina è la loro casa, ogni stella in cielo un ricordo d'amore. Gli altri che non sanno, gli altri che non ricordano, gli altri non capiscono. Davanti a tutto il mondo, perché state tranquilli che siete voi, voi gli unici padroni, padroni del mondo. Gli altri non capiscono.